Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Puntata particolare quella di questa settimana dal mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia in vista della giornata per la vita, 36esima edizione che si celebra questa domenica 2 febbraio. Cosa c'entra questa giornata con la scuola? C'entra qualcosa perché c'è un'esperienza che alcune studentesse, due che abbiamo in studio con noi, hanno fatto in un centro aiuto alla vita. Sono Federica e Carolina, terza A dell'Istituto Mazzotti di Treviso, benvenute. Grazie. E benvenuta anche alla professoressa Maria Grazia Marcolongo che le ha accompagnate qui in studio. Bentornata professoressa. Grazie. Partiamo con lei e dal tema di questo messaggio dei vescovi italiani. 36esima edizione, il tema sono due parole ma insomma, su cui si può dire molto. Generare futuro. Generare futuro, esatto, sono due parole che abbiamo tradotto anche dall'Eterno viene la vita, dalla vita fiorisce il futuro, per rendere un momentino più, diciamo, concrete nella nostra esperienza anche cristiana. Generare futuro, è qui noi abbiamo pensato che, e lo pensiamo sempre, che il primo futuro che è stato generato è stato Gesù, il concepimento di Gesù, e nel suo concepimento possiamo vedere ogni concepimento. E questo generare futuro però si concretizza non solo con l'amore alla vita, ma l'amore alla vita può essere promozione della vita, politiche familiari adeguate, allentare la pressione fiscale. Perché? Perché i figli sono, dicono i vescovi, un autentico bene sociale, un segno fecondo dell'amore sponsale. Dunque, promuovere la vita qui a Treviso, come avviene? Beh, il centro aiuto alla vita è un'esperienza più che ventennale di aiuto alle mamme, alle famiglie, se hanno la famiglia, comunque alle mamme in difficoltà per una nuova o per la prima maternità. E l'aiuto concreto, prima di tutto, nell'ascolto dei loro problemi e poi nel sentire di che cosa hanno bisogno. E qui abbiamo una rete di volontarie, qui a Treviso sono una sessantina, che ogni giorno a gruppi e sono presenti al centro aiuto alla vita per ascoltare le mamme che vengono, per aiutarle concretamente con il latte, con i pannoloni, con tutto quello che serve di materiale bambino, e non dalla culla alla carrozzina, per dire, ma soprattutto quello che è una cosa stupenda che viene fatta, la scuola per le neomamme e l'ascolto, perché l'ascolto è sentire i loro problemi e sentire come hanno loro stesse promosso la vita che era in loro spessissimo proprio per quel filo di speranza che hanno trovato al centro aiuto alla vita. Dunque un servizio grandioso soprattutto delle volontarie. E allora proviamo a entrare come sono entrate un po' così al buio al centro aiuto alla vita di Treviso. Federica Carolina, terza, quindi 17 anni. Più o meno senza bocciature, non contiamole, va bene. All'inizio dell'anno vi hanno proposto un paio di settimane di esperienze, insomma, di volontariato, di stage. Che altre proposte c'erano, Federica, oltre a queste? Tra le varie proposte c'erano di aiutare in un canile dei volontari, quindi occuparsi degli animali, e fare uno stage, quindi o a scuola insieme alle segretarie del nostro istituto, oppure andare in un albergo, comunque in una struttura turistica per imparare il lavoro che sarà poi il nostro istituto turistico, sì. Certo. E oppure aiutare in un asilo delle maestre d'asilo, appunto, Oppure un volontariato con gli anziani, oppure volontariato con persone con l'handicap, o anche bambini con l'handicap, per aiutarli nel dopo scuola con i compiti. Nello oppure studiare. Centro aiuto alla vita oppure di Treviso. Aiuto. E tu con Carolina avete scelto questo? Sì. Come l'avete scelto, sulla base di qualcosa, oppure siete andate? Beh, tra tutte le varie scelte è stato quello che subito ci ha colpito di più, perché non eravamo aggiornati, non sapevamo niente, però la presentazione che ci ha dato la professoressa ci ha colpito. Che cosa in particolare a te? Io sono comunque, amo i bambini, mi piace aiutare le persone, quindi poter stare in contatto appunto con questi bambini, con le famiglie, con le mamme, mi è sembrata un'opportunità che non potevo, a cui non potevo rinunciare. Carolina, le tue motivazioni? All'inizio la professoressa ci aveva parlato soprattutto che si trattava di mamme straniere, quindi provenienti da altri paesi e continenti, e quindi anche il fatto di venire a contatto con culture e persone diverse, cioè sicuramente è una cosa che aiuta a crescere, cioè non solo dal punto di vista scolastico, ma anche, cioè, come persone. Dal punto di vista umano. Questo è l'inizio della scuola, è passato più o meno un mese da quando poi vi siete avvicinate. Nel frattempo, in questo mese, avete cercato altre informazioni, oppure avete detto come va? Io sinceramente non mi sono aggiornata, quindi sono arrivata al primo giorno di volontariato abbastanza con le idee confuse, cioè non sapevo cosa aspettarmi. Avevo ovviamente delle mie idee, però sono state rispettate, sono stata soddisfatta pienamente, ma in modo diverso da come mi aspettavo. Ecco, che cosa ti aspettavi? Intanto sapevi dov'era? Sì. È già molto, sì. Insomma, sapere l'indirizzo, sì. Ecco. Sì, io mi aspettavo che questa associazione desse un aiuto soltanto materiale, quindi dando i vestiti, i giochi, le culle, il mangiare, i pannolini, il latte in polvere. E invece mi sono accorta che appunto con le famiglie, con le mamme, si crea un vero e proprio rapporto. Infatti molte volte le mamme andavano in questa associazione non soltanto per prendere i vestiti o il mangiare, ma anche per soltanto parlare 5 minuti oppure sfogarsi e raccontare i propri problemi alle volontarie. Carolina, tu cosa ti aspettavi? Come te lo immaginavi questo posto? Anche io avevo idee totalmente diverse da quello che poi abbiamo fatto. Mi aspettavo che comunque le volontarie aiutavano le mamme solo dal punto di vista materiale, invece poi, cioè, si è rivelato tutto un mondo dietro a questo aiuto. Infatti all'inizio della nostra esperienza ci hanno fatto tutto un discorso dove ci spiegavano l'aiuto morale che davano alle mamme e che comunque cercavano che, insomma, tutte le mamme che andavano là per abortire, diciamo, di fargli cambiare idea e, cioè, far sì che continuassero a portare avanti la gravidanza e di aiutarle e sostenerle. Centro aiuto alla vita, appunto, come dice il nome. Un po' di pausa e poi torniamo proprio a partire da questa esperienza di Federica e Carolina. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Dove Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ancora insieme questa puntata del mondo della scuola incentrata sulla prossima giornata nazionale per la vita di domenica 2 febbraio, con l'esperienza di Federica e Carolina che frequentano adesso la terza A dell'Istituto Mazzotti di Treviso, si occupano normalmente di lingue, di turismo, di accoglienza, di queste cose, ma l'accoglienza in qualche modo l'hanno anche incontrata e vissuta nell'esperienza di volontariato di un paio di settimane al centro aiuto alla vita di Treviso. Non eravate coscienti, avete detto nella prima parte, pienamente coscienti di quello che vi aspettavo, di quello che fosse il centro aiuto alla vita. Vi siete resi conto che non è solo aiuto materiale, ma anche aiuto morale, proprio in vista della nascita dei bambini. Due settimane, raccontiamo Federica che cosa, per quanto tempo ci stavate, più o meno cosa avete fatto. Ok, allora inizialmente la prima settimana abbiamo aiutato i volontari a sistemare i vari vestiti, c'erano tanti scatoloni con scritto invernale, autunnale, estivo, mezza manica, pantaloncini, tutte, quindi i volontari piegavano le pile di vestiti e noi andavamo a sistemarle nei vari scatoloni, oppure prendevamo dal magazzino gli omogenizzati, i panolini, li sistemavamo negli scaffali. E anche con la pasta sempre sistemavamo i vari tutto alimenti, il materiale. Da dividere per le varie necessità. Almeno personalmente l'esperienza che mi è piaciuta di più è stata quando accompagnate un volontario dietro ai banconi dove arrivavano le mamme, chiedevamo appunto alle mamme e ai bambini cosa volevano, cosa avevano bisogno, andavamo in cerca della taglia, della misura maschio, femmina, e prendevamo i vari vestiti e con le mamme li mostravamo e lo sceglievamo quello che era il più adatto per il bambino. Facendo, Carolina, anche qualche incontro particolare, abbiamo detto la maggior parte delle persone, delle donne che arrivano qui sono straniere e succede di avere difficoltà con la lingua. Sì, ad esempio una mattina siamo appena arrivate, è arrivata anche una signora che proveniente dal Bangladesh, che non sapeva una parola di italiano e non sapeva né leggere né scrivere, quindi abbiamo avuto molte difficoltà perché non conosceva neanche l'inglese. Poi abbiamo coinvolto varie volontarie e alla fine siamo riusciti ad aiutarla, insomma è stata una bella soddisfazione, insomma, che nonostante tutte le barriere poi siamo riusciti alla fine ad aiutarla. Professoressa Marco Longo, il centro aiuto alla vita ha sempre bisogno, come tutti quanti, sì, insomma, ha sempre bisogno di qualcosa, ma è un bisogno e un aiuto che poi sì, si moltiplica. Volevo, no? Dire che quest'ultimo episodio ci dice come sia coltivata quello che il Papa chiama la cultura dell'incontro, ecco, il cercare in tutti i modi di entrare nella persona che viene a chiedere aiuto. È il centro aiuto alla vita che attualmente sta aiutando più di 800 donne, molte straniere, ci sono anche le italiane, ecco, e sempre di più, perché sappiamo com'è la situazione di crisi anche qui in Italia. Comunque abbiamo bisogno sempre di tutto ed è per questo che anche faccio un appello a chi ascolta, se può pensare al centro aiuto alla vita, non solo con oggetti, anche con offerte liberali, ecco, perché dopo si comprano cose che servono per le donne. E questo è già, ringrazio in anticipo per tutti coloro che si faranno presenti con un aiuto concreto. Due ragazze giovani come voi, appunto, che si affacciano alla vita di fronte a magari donne che sono anche poco più grandi di voi, perché generalmente le donne straniere diventano mamme molto prima delle italiane. In questo contesto, cioè l'essere donne anche voi, di fronte a questa situazione, cosa vi ha fatto pensare, cosa vi ha suscitato? Sicuramente, cioè, vedendo queste donne certe volte molto giovani, ho ammirato la forza che hanno avuto comunque a non abortire, a fare la scelta giusta, quindi portare avanti la gravidanza e quindi prendersi delle responsabilità nonostante la giovinezza. Infatti le volontarie ci raccontavano che molte volte delle donne, delle ragazze arrivavano disperate, non sapendo cosa fare, ma poi dopo tutto il percorso fatto con loro e quindi dopo aver preso la decisione di non abortire, si rendevano conto che aver tenuto il bambino è stata la decisione più bella della loro vita e che in quel momento senza loro figlio non sapevano, cioè non avrebbero saputo cosa fare e che quindi tenere il bambino era stata la loro forza per continuare ad andare avanti. Carolina? Beh, sicuramente il coraggio, perché comunque la maggior parte delle ragazze o erano da sole oppure i mariti le costringevano a stare a casa, quindi non conoscendo l'italiano, non conoscevano nessuno, cioè alla fine diventava veramente pesante. Invece venendo al centro aiuto alla vita comunque hanno un posto loro dove poter parlare, conoscere altra gente, quindi comunque instaurare relazioni nuove. E quindi c'è sicuramente il coraggio di queste persone. So che ogni tanto qualche maschio si intravede, ecco, voi ne avete visti magari in disparte, sì, o magari che controllavano, perché in base alla cultura di provenienza il maschio ha un po' questo ruolo, no? In 2 settimane credo di averne visti almeno 5 papà, sì. Però le volontarie sempre quando li vedevano entrare li rispingevano, li mandavano fuori, perché comunque, cioè, questo centro è proprio fatto per stare con le mamme, quindi con le donne, perché stando coi mariti magari hanno paura di confidarsi, di raccontare quello che non va, e quindi stare lontani anche per solo 5 minuti distaccati dalla presenza maschile del marito comunque le aiutava, e quindi i mariti rimanevano fuori. Volevi aggiungere? No, niente. Avete avuto a che fare anche con i bambini direttamente, sì, voi? Sì. Magari quando una mamma si presentava con 4-5 figli, una volta è arrivata anche la mamma con 6 figli, tutti quanti piccoli. Parlare e scegliere i vestiti, vedere le taglie era difficile con appunto 5 bambini intorno, quindi noi prendevamo i bambini in braccio, prendevamo i giochi, giocavamo e quindi aiutavamo. Intrattenimento. Le mamme, sì. E l'ultima parte della nostra puntata la dedichiamo ad altri aspetti di questa esperienza di Federica e Carolina in vista della giornata per la vita. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, dedicata anche alla giornata per la vita di questa domenica 2 febbraio. Ne stiamo parlando a partire da un'esperienza di volontariato all'interno dell'anno scolastico di Federica e Carolina, che sono qui con noi, terza A dell'Istituto Mazzotti di Treviso, e con la professoressa Maria Grazia Marcolongo. Dicevamo, lo hanno detto Federica e Carolina, che il CAV aiuta materialmente, certo, perché l'aiuto materiale importante, ma dà anche un supporto morale, spirituale, psicologico in vista di una nuova nascita, ma anche dopo un eventuale aborto. Sì, questo è un servizio che è stato voluto da Giovanni Paolo II, il servizio alle mamme che hanno volontariamente abortito il figlio. E il CAV di Treviso, merito anche della presidente Lidia De Candia, ha fatto sorgere questo, diciamo, questo servizio per le mamme che hanno abortito. Ci sono persone esperte, perché una mamma che ha abortito non ha più la vita facile, soprattutto dentro di sé, è un problema che noi neanche, chi non lo sa, non lo può neanche immaginare. Ed è un percorso con persone esperte per riaccogliere quasi in sé quella vita negata. E solo riaccogliendo in sé la vita negata, la mamma trova pace. Noi abbiamo avuto l'esperienza, anche una testimonianza, non mi ricordo più se l'anno scorso o due anni fa, proprio all'interno della veglia di preghiera per la vita, forse due anni fa, ed è stata molto toccante. Federica Carolina, due settimane intense, quante ore al giorno? Era dalle 8:30 fino a mezzogiorno, esatto. E mezzo. Quindi la mattina, insomma, sì, l'orario scolastico, sì. Sostanzialmente. Uh-huh. Vi è venuto in mente qualche altro episodio nel frattempo? Da condividere? E oltre all'aiuto che facevamo dentro alla struttura dell'associazione, abbiamo partecipato anche dei corsi esterni che organizza questa associazione, e per la prima volta siamo andati insieme a delle mamme con dei bambini dai pochi mesi fino ai due anni nella biblioteca dei ragazzi a Treviso, e abbiamo appunto insieme ai bambini letto con dei libri, quelli morbidi, colorati, con tutti quanti gli animali, quindi animati, per appunto abituare questi bambini alla lettura, che è molto importante. E quindi ho questo ricordo molto piacevole di tutte noi le mamme volontari in cerchio, con i bambini in braccio, con i libri che leggevamo e raccontavamo le storie. È passato già qualche mese ormai da questa esperienza, ci siete magari già tornate volontariamente, singolarmente, avete intenzione di tornarci? Beh, allora, alla mattina non è possibile appunto. Chiaro, per la scuola, certo. Però il martedì pomeriggio so che fanno il turno al pomeriggio, appunto non ci sono ancora tornata, però volevo tornarci anche per salutare le persone che ci lavorano, perché sono state molto gentili e cordiali con noi, volevo anche salutarle. Certo, Carolina? Beh, sicuramente torneremo, e anche solo per un saluto. Sì. Questi temi, appunto la vita, l'aborto, le difficoltà, insomma, sono temi che poi ritornano nel corso dell'anno scolastico, nella vita ordinaria, o pensate che questa esperienza, pur bella, pur significativa, si sia chiusa qui e stop? No, io credo che comunque ritorni, anche con il nostro professore di religione durante l'anno affrontiamo diversi argomenti, e qualche mese fa abbiamo anche affrontato l'argomento appunto dell'aborto, comunque sempre questi aspetti, quindi credo che ci è servito sia per queste due settimane di volontariato, ma anche nella scuola, ma anche nella vita esterna, nel futuro, comunque sarà un'esperienza che porteremo sempre con noi. Vi siete confrontate anche con le altre compagne e compagne, soprattutto donne, sì, femmine, credo, al Mazzotti, che hanno fatto altre esperienze, avete condiviso, insomma, al ritorno da queste due settimane fine ottobre? Sì, la maggior parte dei nostri compagni ha fatto il viaggio studio a Edimburgo, e invece gli altri compagni che sono rimasti a casa hanno fatto tutti il corso di inglese. Alla fine io e Federica siamo le uniche che abbiamo fatto volontariato. E sicuramente è stata un'esperienza che rifarei subito. Solo che l'anno prossimo non è prevista, o sì? Non si sa. Non lo so, forse sì, perché credo che la ripetano ogni anno. Anche in quarta? Chi non può partecipare al viaggio per rimanere 2 settimane a casa, fa comunque lo che coinvolgono in qualcosa, quindi credo che si ripeta. Ecco, mi pare, professoressa, nel loro racconto, insomma, che valga la pena proporre queste iniziative, no? Sì, vale la pena, ed è un momento di crescita, è anche un momento di crescita con dei contenuti molto forti, perché la vita è un contenuto forte. Se devo dare un'esperienza, io insegno religione al Mazzotti da oltre 30 anni e sono anche prossima alla pensione, ma quando incontro gli alunni, le alunne che ho avuto, mi ricordano sempre le lezioni sulla vita. Questo è la mia più grande gioia, perché vuol dire che toccano il cuore, perché toccano la vita. E allora vi ringraziamo per aver condiviso questa esperienza, vi auguriamo un bocca al lupo per quel che resta di quest'anno. Voi siete in terza, sono previsti esami di medio termine? No, per voi no. E quindi comunque in bocca al lupo per quel che resta dell'anno scolastico. Grazie alla professoressa Marco Longo per questa esperienza. Buona giornata e buon lavoro. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.